Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Benvenuti carissimi ascoltatori, questa è Blue Radio Veneto, queste sono le vostre frequenze amiche, sono le 21 e 3 minuti primi, gli amici di Ora Musica ci hanno rubato ben 2 minuti, vedremo di recuperarli nel corso della trasmissione fregandoli a qualcun altro, per la legge della par condicio si fa così, visto che siamo proprio in tema politico in questo periodo. Vabbè, allora buonasera a tutti da parte di Flavio Bilato e da chi conduce assieme a me la trasmissione del martedì sera, ovvero Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, nonostante il tempo sia avverso, c'è minaccia di neve da tutte le parti, soprattutto nel nord Italia, però c'è chi ce l'ha fatta, è arrivato a trovarci, viene direttamente da Milano e diamo il benvenuto, anzi il benvenutissimo a Alex Cambise. Buonasera Alex. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, innanzitutto, fatto buon viaggio, Alex? Sì? Sì, abbastanza, tranquillo. Tranquillo. Traffico intenso ma scorrevole. Ma scorrevole, naturalmente da Milano non si potrebbe pretendere altro, l'importante è che sia scorrevole. Esatto. Ebbene, non sei comunque da solo, non hai fatto il viaggio da solo perché oltre la tua chitarra... C'è anche la voce di Lisa Lizpetti. È la voce di Lisa. Buonasera a tutti. Buonasera Lisa, bentrovata. Bentrovati. Allora, siamo con Alex Cambise per la presentazione del suo ultimo lavoro, si intitola L'umana resistenza. Allora, subito da Alex, ti avevamo conosciuto con Tre vie per un respiro e poi ancora con la tua pausa inglese Carry On. Adesso ancora delle canzoni italiane molto forti, molto potenti sotto tutti i punti di vista, con l'umana resistenza. Allora, come mai questo titolo? È molto forte già in principio. Ma credo che mai come in questi tempi, in questi ultimi tempi, ci sia bisogno di si sente la necessità di resistere a tutto quello che sta succedendo. Diciamo che probabilmente siamo arrivati allo zenith di un sistema economico, politico, sociale che negli anni è andato via via peggiorando. Che probabilmente siamo arrivati a uno dei livelli massimi di questa espressione nefasta, e quindi sono momenti in cui c'è per forza bisogno di coesione, resistenza. E l'aver messo l'umana davanti non sì. è un caso, perché era a testimoniare non tanto la resistenza del genere umano in quanto tale, ma quanto proprio la resistenza nella dignità umana. Quindi questa resistenza deve avere questo tipo di sbocco, questo tipo di scopo, cioè rivalutare la dignità dell'uomo in quanto essere vivente. E questa rivalutazione la fai con delle storie, con dei personaggi, tutti richiusi in quello che potrebbe essere definito un tuo concept album. Di base sì, perché sono ritratti di figure resistenti, cioè di persone o popoli o comunque di gente normale fondamentalmente, che però in situazioni straordinarie si trova a fare cose straordinarie. Questo forse è il piccolo segreto, non tanto piccolo, dell'uomo, il fatto comunque che nonostante tutti i suoi limiti, quando poi è il momento di far vedere quanto di buono c'è nell'essere umano, fortunatamente questo bene viene fuori. La sfortuna sta nel fatto che sarebbe bello ci fossero meno occasioni possibile per doverlo dimostrare. Però, insomma, va già bene così, sono comunque esempi da seguire per coltivare dentro di sé appunto questi valori di dignità, di resistenza, di solidarietà. Certo. Che poi sono quelli che dovrebbero... Dovrebbero esistere sempre e comunque. Dovrebbe essere connaturale a noi. Certo, assolutamente. Dovrebbe essere proprio nell'umana resistenza. Esatto. Ed esistenza, senza la R. Tutti benissimo. Fuori, sì, tu tiri fuori la resistenza di un musicista rock. Assolutamente. Sì. Tiri fuori il tuo rock resistente. Beh, innanzitutto perché essere un musicista rock in Italia parti già dal presupposto di dover resistere. E chiaramente a tutto. A qualsiasi cosa. Esatto. Perché in Italia non c'è una cultura rock, non c'è soprattutto una cultura di rock, adesso tralasciando il mio caso ovviamente, ma pensando a ben altri esempi, manca la cultura di un cantautorato rock che sia dico militante ma sbaglio, più che militante che sia colto, che sia, che tenga in considerazione quegli aspetti che dicevo prima. Molto spesso il rock italiano è o molto metafisico oppure tratta storie da bar o insomma quella frecciatina a qualcuno, no, ma non particolarmente, anche perché non è un genere che ha inventato lui, quindi, è solo un invito a rivedere un attimino la situazione dei testi. Ma adesso, se senza voler, poi sembra uno che vuole salire in cattedra, per carità, cioè, ne ho da fare, no, è più che altro perché sarebbe bello, anche magari da chi ha molta più voce di me, sarebbe bello che magari ogni tanto si facessero dei nomi, dei cognomi, comunque far capire a tutta una generazione di ragazzi, e ai non solo, che in un modo o nell'altro gli stanno facendo una colonoscopia senza accorgersene. È vero, assolutamente mi ritiro questa immagine che ha voluto dare Alex. È l'unica cosa che mi picco, tra virgolette, ovviamente, di improverare a chi ha molto più visibilità di me, quella di ogni tanto di poter mettere la zampata e dire: ragazzi, guardate che le cose forse stanno così. Qualche volta lo fanno, ma non spesso, anzi... Lo fanno, però tirano sempre indietro quando lo devono fare veramente. È vero, però quando vedi adesso, senza voler fare l'esterofilo, non facciamo nomi, però l'esterofilo per forza, ma quando vedi grandi artisti, esempio americani, mi riferisco a Springsteen, a Mellencamp, a Tom Waits, a Bob Dylan, gente che ovviamente ha un seguito infinitamente superiore ai nostri, non hanno paura di dire le cose come stanno, di raccontare certe storie. E forse se un giorno ci sarà una certa ripresa in certe zone del mondo, un po' di merito sarà anche il loro. E a noi manca questo tipo di spinta in avanti. Noi che siamo la culla della cultura, dovrebbero nascere da noi certe. Il mondo moderno nasce da noi, dal Rinascimento. Quindi mi fa un po' specie non essere del gioco in questo senso. Sì, è la culla della cultura, poi hanno tolto le sponde, naturalmente è successo quello che è successo. Adesso, senza far politica, però abbiamo avuto un ministro dell'economia che un anno e mezzo fa disse: la cultura non si mangia. E quando uno fa un ragionamento del genere vuol dire che non ha capito le potenzialità di questo paese, che la cultura l'ha inventata, tra virgolette. Certo. Benissimo, allora siamo con Alex Cambise, L'Umana Resistenza si intitola il suo ultimo lavoro. Allora direi di cominciare proponendo un pezzo che poi torneremo a commentare insieme. Si intitola Nati nel 70, poi capiremo da Alex come mai proprio questo 70. Per 10 anni non se ne andò Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Abbiamo ascoltato il primo pezzo tratto dall'ultimo lavoro L'umana resistenza di Alex Cambise, si intitola Nati nel 70 ed è un nei 70 ed è un grido generazionale, si può dire così. Sì, innanzitutto io sono nato nei 70, anzi nel bel mezzo dei 70. Sì. Nel 75, e quindi ovviamente parlo della mia generazione in primo piano, per un semplice fatto. Siamo una generazione abbastanza strana, nel senso che siamo nati negli anni 70, che storicamente sono quelli più violenti, più impegnati, dove i pacchettari sono negli anni 70. Dove si combatteva sbagliando i metodi, ovviamente, per gli ideali. E di contro siamo diventati cresciuti comunque come esseri umani negli anni 80, che sono stati gli anni invece del vuoto assoluto, della promessa non mantenuta di un paese che avesse di fronte a sé un futuro radioso a livello economico. Quindi un po' la generazione che l'ha presa sulle spalle. Sì, perché siamo cresciuti credendo che di fronte a noi ci sarebbe stata la vita tranquilla come quella dei nostri genitori, quindi il tuo lavoro, le tue robe. E invece ci siamo trovati a farci veramente uomini in questi anni, e quindi chi è nato nel 70 adesso ha sui 30 anni, qualcosa in più, qualcosa in meno, però siamo lì e magari ha una famiglia, sta pensando di, o magari l'ha appena fatto e si trova di fronte a questa grandissima crisi economica in cui hai appena costruito qualcosa e non hai più le condizioni per poterla portare avanti, con tutte le disperazioni che questo comporta. E se un domani, non credo, ma se un domani ci dovesse essere una vera ripresa, ovviamente noi saremmo già vecchi, cioè sui 40, e saremmo fuori dal gioco, saremmo quasi esodati, tra virgolette, e ne beneficerà ovviamente la generazione che segue la nostra. Quindi, certo, comunque vadano le cose, bene o male, noi comunque siamo forse la generazione che ha pagato, pagherà di più. Comunque diceva Gaber, Renato, un po' prima di te, diceva in uno dei suoi ultimi dischi: la mia generazione ha perso, quindi un po' tutte le generazioni di cui parlano le canzoni non sono mai vincenti. È vero, però la generazione di Gaber che ha perso era più una sconfitta a livello ideologico, nel senso che la generazione di Gaber era quella degli anni 60-70 che ha provato spesso ha anche vinto certe battaglie, ha provato appunto ad allargare il potere di certi ideali come la solidarietà, eccetera eccetera. La nostra invece è una sconfitta reale, fisica, tangibile, cioè noi siamo proprio, se abbiamo perso sul campo per adesso, non abbiamo, il nostro non è più un problema di ideologia, il nostro è un problema di pagare la bolletta del gas o di cercare di pagare il mutuo o di anche solo di cercare di arrivare alla fine del mese e mangiare, che ribadisco è vero che è un problema di tutti in questo momento, però la mia generazione è quella che probabilmente ne soffre di più. Non siamo abbastanza vecchi per aver avuto un trascorso e quindi magari una carriera avviata, salvarsi le chiappe in qualche maniera, però non siamo abbastanza giovani per essere fuori dai giochi. Noi siamo in mezzo nel tritacarne e non ci hanno dato nessun tipo di arma, di possibilità, di indirizzo da seguire, siamo lasciati a noi stessi e ribadisco, probabilmente alla fine dei giochi la storia insegnerà che la mia generazione è quella che più di tutte ha pagato. E l'ha colorata con una ballata rock molto accattivante, si apre il disco, deve rompere il disco, che deve dare un input. Ma sì, non è un caso che ho scelto un pezzo generazionale appunto per aprire l'album, volevo qualcosa che facesse capire, tra virgolette, che introducesse e facesse arrivare al punto in cui siamo ora, quindi qualcosa che facesse capire questi tempi quali sono e in che modo ci siamo arrivati, per poi ovviamente far partire tutta una serie di storie che oggi spero sentiremo e che appunto affondano le loro radici in questo, e quindi era la cosa più logica farne una cosa generazionale. Spero che i miei coetanei spero di no, che non si ritrovino per motivi pratici. Chi purtroppo dovesse ritrovarsi, insomma, mal comune, mezzo gadio, facciamo cerchiamo di unirci in qualche maniera e trovare una soluzione noi, perché gli altri non ce la trovano. Ah beh, chiaro, questo è chiaro. Benissimo, allora salutiamo anche tutti gli amici che oltre alle frequenze tradizionali hanno scelto lo streaming audio collegandosi a bluradioveneto.it e cliccando all'interno della pagina riservata alla presentazione del disco di Alex Cambise. E poi salutiamo anche gli amici di Facebook che ci possono ascoltare anche da Blu Radio Veneto Rock Wave, appunto Facebook. Mettete anche il mi piace, ne vale la pena, saremo sempre in di più. Allora Alex Cambise è arrivato in compagnia di Lisa Lizpetti con la sua bella chitarra e adesso ci propone qualcosa dal tuo lavoro in versione acustica, Alex. Dovrebbe esserci, perché sì sì, la canzone per canzone per Vladimir Pravik, vogliamo parlarne dopo, per adesso come ne parliamo dire? Dopo va bene. Passo da Pripyat, lo conoscerai. Fin da bambino fare il pompiere era il mio sogno, la mia via. Ora porto a morire un gruppo di eroi e non ne ho neanche idea. E il fumo sale, il fumo sale, ad abbracciare migliaia di vite e portarle altrove. È quasi l'alba e tra poco vedrai, avremo ancora vinto noi. Ma lui non si arrende, non soffoca mai. Sento che entra dentro la pelle per non uscirne mai più. Tutto il male del mondo e la rabbia di chi muore ancora qui. E il fumo sale, il fumo sale, ad abbracciare migliaia di portarle altrove. Il fumo sale, quasi lieve, e nessuno che parli di lui, soltanto sperare. Blu Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Siamo con Blu Radio Veneto, sempre Flavio Bilato, Maurizio Calzavara e con noi Alex Cambise in questa serata per la presentazione del suo L'Umana Resistenza, l'ultimo lavoro che parla di persone che hanno condotto una vita di resistenza. E in questo caso una canzone dedicata a Vladimir Pravic, con questa canzone appunto per Vladimir Pravic, che era una persona qualunque fino a qualche momento prima che succedesse una grande esplosione. Era uno era che... un tenente dei pompieri, che era capo appunto di una squadra. Sì. E una mattina di aprile dell'86 ricevette una sua chiamata dicendo: Vladimir, c'è da andare a spegnere un incendio di un cortocircuito, vai con i tuoi ragazzi e spegnetelo. Sì. Il problema è che non gli dissero che non era un cortocircuito, ma era l'esplosione di un reattore nucleare a Chernobyl. E quando arrivò lì, ovviamente senza nessun tipo di preparazione, senza nessun tipo di attrezzatura, protezione, protezione per poter affrontare la cosa, invece di scappare in Siberia, come magari io per primo forse avrei fatto, meglio il gulag forse che quello, con i suoi ragazzi comunque spense i primi fuochi, anzi da quello che so fece anche in modo che la fusione del nocciolo non raggiunse la falda acquifera che era sotto la centrale, perché l'acqua, se il fuoco si avesse raggiunto appunto la falda acquifera con la forza del vapore, probabilmente avrebbe anche causato l'esplosione degli altri tre reattori e quindi un disastro di proporzioni veramente tremende. Di quella squadra credo che fossero circa una quindicina di ragazzi. Dopo due settimane non c'era più nessuno, e forse dobbiamo anche a loro un po' la nostra vita, visto che la nube arrivò anche in Italia con quello che ne consegue, e il fatto che forse abbia fatto meno danni di quello che crediamo lo dobbiamo anche a lui. Quindi mi sembrava giusto parlarne. Sì, come dicevi prima, ci sono molte persone di cui non si parla, invece varrebbe la pena parlarne di più. Purtroppo si fa dopo che sono andati, dopo aver esercitato il loro dovere comunque fino in fondo. Esatto. Poi purtroppo in questo caso, visto anche che ci fu una buona copertura e insabbiatura del governo sovietico per lungo tempo sono stati gli svedesi a famoso. Esatto. Sì, forse ancora non lo sappiamo del tutto, però magari un 50% è venuto fuori ad oggi. E quindi queste informazioni, questi eroi li possiamo magari riscoprire solo oggi. Ribadisco, è giusto poter e guarda caso molte loro. Volte si riscoprono solo grazie a cantautori come te, che prendono questo personaggio e ne ricavano una canzone che tu hai cantato veramente con disperazione, con forza e ancora con un grande dolore, immutato dolore. Ma sai, comunque volevo scrivere una canzone su quello che era successo a Chernobyl, anche perché parliamo di un anno e qualcosa fa, e nel momento in cui ci fu il referendum sul nucleare, eccetera, sì, eccetera. Quindi ovviamente l'argomento ritornò di attualità. Volevo scrivere appunto qualcosa su quell'evento. Come cerco di fare normalmente, però non volevo scrivere una canzone che semplicemente descrivesse l'evento, perché credo che abbia meno forza. Anche perché poi sono cose che sappiamo più o meno tutti, sappiamo cosa è successo, sappiamo il costo che ha avuto, eccetera, eccetera. Certo, non potevi fare una cronaca. Però di la vera, che era la successo, vera, secondo sì. me, quando ci sono questo tipo di eventi, il peso drammatico che abbiamo, la vera spinta drammatica e emozionale ce l'abbiamo immedesimandoci su quelli che l'hanno vissuto veramente, e quindi quali possono essere state le sensazioni, le emozioni, i profumi che hanno sentito quelle persone in quei determinati momenti. Perché è molto, ovviamente, molto più facile. Per quanto siano situazioni straordinarie, è molto più facile specchiarsi in un altro uomo, negli occhi di un altro uomo, nel dolore di un altro uomo, piuttosto che in un lungo elenco di orari, di avvenimenti e di cose sbagliate o no. Anche perché poi alla fine della fiera la storia freddamente ci insegna a valutare solo esclusivamente gli eventi, però quando questi eventi ci sono, dietro ci sono sempre uomini, quindi guerre, disastri, cose buone, cose cattive, ci sono sempre comunque dentro uomini e storie. ed è giusto raccontare prima di tutto quelle storie. Forse gli eventi storici avrebbero un po' più peso se noi veramente li riuscissimo ad abbinare a storie di vita. E musicalmente l'hai trattata come una ballata quasi folk, diremmo folk. C'è la fisarmonica che dà una colorazione un po' particolare. Sì, all'inizio appunto ho voluto dargli questa trasposizione quasi balcanica. Ringrazio Riccardo Maccabruni dei Mandolin Brothers, ma anche fortunatamente da un po' anche nella mia band, che ha saputo... Che è il batterista della tua band. Riccardo Maccabruni è il fisarmonicista. Ah, scusa, sì, fisarmonicista, scusa. Che ha saputo... dare il tocco giusto. Sì, ma quasi, tra parentesi, quasi anche alla prima take, quindi sì. un genio assoluto per quanto mi riguarda, perché si è appunto subito cogliere quella che era il sentimento che volevo esprimere, quindi è eccezionale. In questo pezzo, ovviamente, più avanti, essendoci una parte anche poetica, ringrazio anche il batterista. Esatto. Ecco qua, sì, eccolo qua. Perché ho letto la riga sotto. Palma, perdonatemi. Che è il grande Oscar, sì. Palma, anche lui, sì. Mi accompagna da un po'. È un altro carissimo ragazzo, un altro grandissimo musicista. Quindi, quando saremo in giro dalle vostre parti, spero a suonare, incontreremo anche, oltre Lisa, anche Riccardo, Oscar e Mauro Rota, che è anche il bassista della mia band. Qui chiaramente in questo momento, qui dal vivo, giustamente una colorazione prettamente folk, ma un folk molto percussivo, nel senso con molto pathos, molto forte, visto il testo, visto l'importanza, visto l'avvenimento, visto il personaggio sconosciuto ma ora conosciuto da molti, speriamo, sicuramente. Speriamo. Grazie al tuo disco, chiaramente. Ma sai, gente così dovrebbe essere conosciuta a priori. Certo. E quindi spero nel mio piccolo anche di contribuire sia a valutare, a dare valore alla figura di Vladimir, sia ovviamente anche ad altre storie che racconto in questo album. Se qualcuno riesce a prendere una storia tra le tante che ci sono sul disco e farla sua, per me è già un grandissimo successo. Allora facciamo ascoltare un'altra storia del tuo album, quindi andiamo avanti con la programmazione da disco e ci ascoltiamo questa, Pace e Libertà. È arrivato il tempo, il vento cambia già, sento che la piazza ieri vuota si riempirà. Sono finiti i giorni con lo sguardo giù e piano una voce in alto si alzerà, pace e libertà. Siamo qui, restiamo qui, urliamo contro il mondo, siamo liberi. Anni di padroni, anni schiavitù, anni di chi viene da lontano per prendere di più, e anche chi ci guida ci ha venduto già. Ma ora una voce in alto si alzerà, pace e libertà. Siamo qui, restiamo qui, siamo uomini, siamo qui, venite tutti qui, il suono di un'idea. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Ed eccoci qua ancora in diretta dopo aver ascoltato la canzone di Alex Cambise, si intitola Pace e Libertà, una canzone che tratta un po' di quella che è la primavera araba del 2011, che sta, diciamo, nostro malgrado, continuando anche adesso, perché si è spostata proprio come una marea. Adesso i fatti attuali vengono direttamente dalla Siria. Allora, ancora l'umana resistenza anche in questo caso, Alex? Sì, ovviamente la primavera araba in questo caso era più che altro uno spunto. La canzone è tranquillamente estendibile a qualunque popolo, a qualunque, in qualsiasi forma venga represso. Vale anche per il nostro, che siamo repressi in altre maniere che a prima vista sembrano più democratiche. Sì. Poi alla fine della fiera forse sono anche più subdole. Quindi diciamo che la prima araba in realtà è semplicemente lo spunto di inizio per la prima chiave di lettura per la canzone, ma poi alla fine della fiera ovunque ci sia un richiamo appunto di pace e di libertà, che sono i due aspetti fondamentali della vita dell'uomo, perché dove c'è la pace e dove c'è la libertà tutto il resto può attecchire. Dove non ci sono, ovviamente non si può costruire niente, né a livello sociale né a livello economico, eccetera eccetera. Certo. Quindi penso che siano i due aspetti più importanti. Quando scrivere una canzone del genere, tra parentesi ringrazio tantissimo l'amico Daniele Tenka, che è ospite, ecco, nel qua, brano, sì. Che ha cantato veramente in maniera... Daniele Tenka, che tra altre cose è uscito anche con un proprio disco recentemente. La settimana scorsa ho avuto l'occasione di sentirlo. Tra parentesi, io e Lisa abbiamo avuto anche la fortuna di fare i cori in un paio di pezzi. Ah. Ed è veramente un grandissimo album, e Daniele avrà un bel 2013, io lo auguro, perché il disco è veramente notevole. Wake Up Nation si intitola. Contiamo che possa venire qua prossimamente. Lo spero perché Daniele è un artista della la chiamiamo New Wave Rock o Italian Rock. È uno dei più rappresentativi, è uno che ha saputo costruirsi una strada. E questa nuova ondata appunto di cantautori tra rock, blues, folk, spero che il pubblico italiano in qualche maniera riesca ad appoggiarlo, perché potrebbe dire veramente grandi cose. Comunque, ritornando sulla canzone in questione, è una delle canzoni che ho avuto più difficoltà a scrivere, perché quella che a prima vista può sembrare più didascalica, quasi scontata, quasi banale. Però è anche vero che alla fine della fiera, quando tu hai bisogno di una cosa e ne hai bisogno davvero, non c'è modo più forte di chiamarla col suo nome. E quindi se tu hai bisogno di pace e libertà, è inutile fare giri strani. Chiamala col suo nome, pace e libertà, urlalo nella speranza che qualcosa venga fuori. Quindi mi sono sforzato di essere didascalico, appunto al rischio di mostrare il destro a critiche di banalità o di qualunquismo addirittura. Però vabbè, c'è chi molto più importante di me ha subito queste accuse. Va oltre sicuramente al grido di peace and love, no? Esatto. Quindi ci hai messo un pochettino più di tempo a costruirla, anche musicalmente, oppure solo il testo ti ha messo in difficoltà, tra parentesi? No, il testo mi ha messo in difficoltà relativamente, perché sono... Quando le cose, come ti dicevo, quando le cose le devi chiamare, sì, col suo nome, allora bisogna... Ci metti poco, perché certo, è quello che devi dire, quindi lo fai subito. Poi però lo guardi e dici... arriverà, le persone capiranno cosa ho voluto dire, non ovviamente come significato, sì, ma capiranno che è una scelta il fatto di essere diretti. E posso solo sperarlo, spero che chi ascolta, chi avrà la bontà, la voglia di ascoltare questo album, ne sappia trarre il giusto sentimento. Qui in questo caso è più l'emozione che vince che non il testo, piuttosto che... Certo, allora diciamo, Alex, subito come fare per entrare in possesso del tuo CD. So che c'è anche un sito internet a disposizione degli ascoltatori. Allora, innanzitutto è ovviamente downloadabile su iTunes e i vari negozi online. Poi potete tranquillamente comprarlo, spero, nel vostro negozio di fiducia. Se non c'è, lo potete ordinare specificando che è la distribuzione della IRD, che è una distribuzione importante, che è una distribuzione importante che sta lavorando molto bene, e quindi ovviamente all'atto della prenotazione specificate questo dato. Se proprio per qualsiasi motivo non ci riuscite, sia sul sito della IRD appunto, sia sul sito della Ultrasound Record, che è la mia casa discografica, si può trovare tranquillamente l'album, lo comprate, vi arriva in pochi giorni, e nei concerti tuoi e nei concerti miei, ovviamente. Questo è chiaro, è importante, è prescindibile. Benissimo, allora direi di far ascoltare un altro pezzo dal vivo, visto che sei qua con la chitarra. Poi ti sei fatto accompagnare da Lisa Lispetti, che ha una splendida voce. Grazie. Quindi spero intervenga anche lei, magari. Arriva. Dopo abbiamo preparato una cosa speciale. Oh, allora. Che è diventata speciale per con l'attenzione. Noi. Perché, sì. Benissimo. Adesso, visto che stavamo parlando appunto di resistenza, cose, volevo fare questa canzone che si chiama Invisibile. Faccio lo spiegozzo veloce, perché sì, certo. È una di quelle canzoni che quando le scrivi sembrano sempre un po' criptiche, hai bisogno di dare una chiave di lettura. Invisibile si ispira alla storia della fabbrica dei veleni o fabbrica degli invisibili, che era la SLOI di Trento, che è società lavorazioni organiche e inorganiche, che rimase aperta circa 40 anni tra la fine degli anni 30 e la fine degli anni 70, e producevano piombo tetraetile, che era l'additivo che rendeva la benzina super. Prima i più anzianotti, i più grandicelli, sì, sapevano che non c'era la verde, c'era la normale e la super, che aveva appunto questo. Tu prima parlavi di profumi a proposito di questo, e questo profumava in una maniera anche abbastanza, esatto, come questo dire... piombo tetraetile era un po', aveva questo bellissimo odore di mandorla particolare, sì. Il problema è che era altamente tossico, sia col contatto epidermico sia nell'inalazione, e produceva danni permanenti al fegato, all'apparato respiratorio, stato di allucinazioni, patologie appunto al fegato croniche, quasi a livello di un cirrosi, quasi a livello di un alcolista, appunto stati di allucinazione, alterazione del carattere. C'erano persone che si suicidavano buttandosi da una finestra pensando di essere degli aerei, piuttosto che altri che tornavano a casa picchiavano i familiari, le mogli. Cioè, comunque in 40 anni hanno fatto un disastro in questa fabbrica. E giusto per dare un piccolo metro di lettura, i dati del sindacato dicono che nei 10 anni più o meno tra gli anni 60 e gli anni 70 ci furono un caso di quasi 1300 intossicati in una fabbrica che però conteneva di volta in volta 200 operai. Questo per farci capire il ricambio velocissimo, parliamo di mesi, in cui un operaio entrava sano e usciva, nel migliore dei casi andava all'ospedale di Padova come intossicato cronico, quelli che proprio non riuscivano a guarire o passavano una miglior vita, oppure venivano internati nel manicomio di Pergine come folli, come pazzi. E quindi per loro, per questa storia che sono venuto a scoprire grazie ad Andrea Brunello, che è un attore appunto di Trento del teatro Portland, che mi ha dato informazioni su questa storia della quale non parla nessuno, ho avuto voglia di scrivere questi piccoli dettagli raccontando la storia di questi invisibili, e la canzone appunto si intitola Invisibile. Quanto è dura una verità, quanto costa la testa, che profumo all'anima, forse odore di mandorla. Oggi che il topo in trappola, chi lo seguirà? Chi sarà il prossimo tra noi che volerà? Certe volte non ricordo chi sono io, altre inizio a piangere. Notte in bianco e la fame che va via, e mio figlio mi guarda e non mi vede più, oh no. Invisibile, quale traccia di un incubo segna la nostra pelle come un blocco di piombo, pesa sopra le spalle. Siamo qui per un sogno, per la felicità. C'è chi guarda se ne va via, questa è la verità. Certe volte non ricordo chi sono io, altre inizio a piangere. Notte in bianco e la fame che va via, e mio figlio mi guarda e non mi vede più, oh no. Invisibile, stato abbandonato là, o di chi è andato avanti. 40 anni di fango sopra una città, sopra chi parla piano e piano se ne andrà. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Lasciamo prendere un po' di fiato ad Alex Cambise. Esattamente. Gli aspetti, perché abbiamo ascoltato un intenso brano, appunto Invisibile si intitola, dedicato a queste persone, alle loro vedove, ai mariti, a tutti quelli che sono finiti direttamente e indirettamente in questa storia chiamata appunto Invisibile, della quale Alex ci ha fatto un ampio quadro su di come e quando è successo questo, cose come un'altra Chernobyl, si può dire. Sì, tra parentesi abbiamo sfiorato in realtà una Chernobyl, perché nel 78, cioè qualche giorno prima della chiusura di questa fabbrica, ci scoppiò un incendio in questa fabbrica. In realtà il fuoco stava per raggiungere il deposito del piombo tetretile, che è molto volatile, quindi se le fiamme avessero raggiunto questi bidoni probabilmente ci sarebbe stata una bomba tossica molto molto più grande, anche quella di Bhopal per esempio, o quella di Seveso. Sì. Fortunatamente i pompieri anche in questo caso riuscirono a trovare un sistema per spegnere queste fiamme, che erano chimiche, quindi l'acqua non bastava, però riuscirono a spegnerle, appunto riuscendo a evitare questo disastro. E il giorno dopo il sindaco di Trento ebbe finalmente l'idea di dire: basta, qua chiudiamo. Per chiudere il discorso, oltre al danno alla beffa, nel senso che questi, da quello che so, perché si sa molto poco di questa storia, questi bidoni di piombo tetretile sono ancora lì in questa fabbrica, che ormai è disabitata, nel centro di Trento, abitata da barboni, gatti e quant'altro, e con la pioggia e gli eventi atmosferici che stanno di anno in anno logorando i contenitori di questo schifo che pian pianino sta entrando nelle falde, eccetera eccetera. Quindi spero, qualcuno mi informi se da Trento ci ascoltano, spero che qualcuno abbia messo in conto una bonifica della zona in qualche maniera, perché è una bomba orologeria nel centro di una città. Quindi. Ma al di là del discorso della collaborazione col gruppo teatrale, perché hai scovato questa storia? Perché? Perché in realtà ci sono cascato per caso, nel senso che girando, adesso devo fare purtroppo pubblicità, girando su Sky, vidi casualmente su History Channel un documentario che parlava di questo, un documentario di 40 minuti che parlava di questo fatto, e ovviamente mi incuriosì tantissimo, ma non trovando in giro materiale lo accantonai. Poi casualmente su internet scovai appunto Andrea Brunello che fa questo spettacolo che si chiama Sloy Machine, che è una specie di è teatro civile con lui che racconta la storia di quello che è successo, un bellissimo spettacolo tra parentesi, quindi chi della zona lo esorto ad andare tipo a vedere. Paolini, una cosa di quel genere. Esatto, sì. Quindi teatro civile è fatto molto bene e la storia è raccontata nei minimi dettagli, quindi mi è venuto spontaneo contattarlo e oltre a congratularmi per il bellissimo lavoro chiedergli magari informazioni, perché immagino che all'atto della costruzione di questo spettacolo abbiano assunto parecchie fonti. Certo. E quindi mi è venuto automatico chiedere a lui appunto informazioni su questo, spero nel mio piccolo, anche qua come in Canzone per Vladimir Pravik ho cercato invece di descrivere gli eventi in maniera più didattica, che forse sarebbe stato maggiormente forse interessante dal punto di vista puramente tecnico, però mi sentivo di più di specchiarmi appunto in coloro che hanno vissuto, cercare di specchiarmi, perché un inferno del genere riesco solo a immaginarlo, che hanno vissuto appunto questo dolore, loro e le loro famiglie. Come ha detto giustamente Flavio, quando dopo l'esibizione che ha fatto di qualche minuto fa, è una canzone di denuncia, ma proprio si è visto anche stasera, è proprio una denuncia forte, potente, cioè che va al di là di tutto, la gente deve sapere, deve conoscere che cosa c'è stato. Sì, perché spesso la vera sconfitta delle nostre generazioni a livello planetario, ma soprattutto nostra italiana, negli ultimi anni è la nostra vera sconfitta, è l'ignoranza. Sì, di non sapere. Non sapere le cose che ci succedono a 5 metri. E che ovviamente saperle magari potrebbe cambiarci prospettive di vita, idee, anche semplicemente il fidarsi o no di una persona che può essere protagonista, positivo o negativo, di una determinata di un determinato evento. Invece oggi si tende ormai da anni a insabbiare tutto, a rincretinirci con partite di calcio piuttosto che, sì, che cosce tette in televisione. E, quando è importante invece la memoria collettiva di un popolo, quando un popolo ha una memoria collettiva forte e sa qual è il suo passato e quello che ha dovuto vivere nelle varie parti di questo popolo, è più difficile che un regime riesca a tenerti buono. A noi manca completamente, in quanto popolo, visto che probabilmente non siamo ancora un popolo unito, ci manca completamente una memoria collettiva. Adesso ho preso l'esempio di Trento, ma probabilmente Bolzano non sa cosa fa Trento e Milano non sa cosa fa Abbiategrasso. Invece sono convinto che se ci mettessimo a parlare tra di noi, da Caltanissetta a Vetta d'Italia, forse ci accorgeremo che abbiamo tante di quelle cose in comune, molte di più di quelle che pensiamo. Potremmo essere veramente un popolo unito e ce la darebbero meno a bere. È un pio sogno forse, però ma perché è gioco, secondo me, è gioco di coloro ai quali conviene il fatto di dividerci con queste scuse di diversità culturali per poterci insomma tenere sotto, sì, perché il gruppo, quando il gruppo si compatta, il gruppo è potente, è forte. Bisogna allora, non compattarlo il gruppo. Allora lì parte la rivoluzione. Esatto. Una volta che il gruppo è compatto, si parte e si travolge il mondo. Ma io sono, io sono un pacifista e obiettore di coscienza per principio. Io sono convinto che la vera rivoluzione non è la Bastiglia. Ovviamente a quei tempi probabilmente c'era bisogno di quello. Ma io sono semplicemente convinto che se ci mettiamo, non dico tanti, 700-800 mila davanti a Montecitorio solo a guardarli, ma senza fare niente, a guardarli, io penso che inizierebbe a inquietarsi un attimino, a riflettere. Soprattutto se questi 800.000 non hanno bandiere. Sì. Perché finché le hanno di un colore e basta, l'altra parte ha gioco facile. Se invece ci uniamo tutti, perché tutti abbiamo bisogno delle stesse cose, perché tutti abbiamo bisogno di arrivare alla fine del mese, tutti abbiamo bisogno di strade sicure, tutti abbiamo bisogno di un'economia che funziona, tutti abbiamo bisogno di una cultura che ci arricchisca. Io penso che sarebbe completamente diverso. Va bene, proviamoci. Allora siamo già in quattro ad andare avanti a Montecitorio, vediamo quanti altri arriviamo. Allora, tanto per dire, io non rimango qua, però ci ascoltiamo una canzone che invece si intitola Io rimango qua, e che poi torneremo a commentare, perché fa parte dell'album di Alex Cambise, che si intitola L'umana resistenza. Eccolo qua. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Qua c'è la mia terra, qua ferita e masticata, ma vuol rinascere. E qui c'è la mia gente, qui è la parte migliore, sa che non vincerà. E c'è chi va via piangendo un amore, sperando di poter ritornare. Sogni miei, poi non c'è neanche un cane che si accorga che il suo osso sia non più cosa sua, e ognuno a morire dentro al suo inferno, urlare di notte, piegarsi di giorno. La riprenderò, la riprenderò. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato Io rimango qua, Alex Cambise, il suo ultimo lavoro, L'umana resistenza. Allora questo Io rimango qua, un brano rivolto agli altri, a quelli che se ne vogliono invece andare per costruirsi una vita lontano dalla propria patria, dal proprio punto nativo, e invece di fronte a una distruzione uno rimane per ricostruire, per voler bene a quella terra che fino a poco prima gli aveva dato molto. Sì, in realtà è una seduta di autocoscienza, perché sono io il primo che mi sveglio quasi tutte le mattine dicendomi: adesso me ne vado a Londra, in Germania, in Svizzera, perché siamo messi male, non c'è molto spazio per certe cose che non siano più che collaudate in questo paese. Però dopo ci rifletti e in un certo senso cerchi di fare in modo di vincere tu una battaglia perché poi possa essere utile per l'apertura di un qualche discorso, e quindi cerchi di convincerti a rimanere, a combattere, a lottare. Questa canzone serve innanzitutto a me come esortazione per cercare di rimanere e tenere duro nonostante tutte le difficoltà di cosa vuol dire, appunto, come dicevamo prima, fare un certo tipo di discorso musicale in Italia. E poi cerco anche di estendere questo a tutti coloro che ascoltano. Cerchiamo di combattere per la nostra terra. Un brano questo assolutamente americano, si può dire, un grande esperimento di rock and roll, è un finale veramente da spacca chitarra, si può dire. Sì, volevo che suonasse più live possibile. La jam session proprio hai fatto. E quindi anche qua non posso che ringraziare, appunto, Riccardo Maccabroni con questa intro molto bittaniana. Al pianoforte, Oscar Palma alla batteria, che è un tiro eccezionale, e un ospite notevole che per me è stato un regalo grandissimo, che è Maurizio Gnola Ielmo, chitarrista di Fabio Treves, della Gnola Blues Band e anche di Davide Van de Sfros, che con la sua slide ha aggiunto molta America a questo pezzo. Non posso che ringraziarlo. Molto America, hai detto una cosa giusta. Beh, le radici partono da là, Alex. Sì, le radici musicali, sì, fondamentalmente. La musica che ho sempre ascoltato è quella fondamentalmente americana, anglosassone in genere, quindi anche inglese, quindi i nomi tutelari sono i nomi che penso conoscano molti che seguono questa trasmissione, quindi Dylan, Springsteen, Waits, Mellencamp, Tom Petty. A me interessa molto, hai citato Mellencamp, non è che venga citato spesso John Mellencamp, anche se è un musicista straordinario, tutti se lo ricordano, ma è stato prodotto da Madonna all'inizio di carriera, se lo ricordano per quello. Allora, è vero che Mellencamp è un come forse Tom Petty, anche se in misura minore, è un fenomeno prettamente statunitense. Tom Petty forse un po' meno. Tom Petty è un po' più diffuso, sì, tra molto, virgolette, in Europa. Poi, soprattutto alla fine degli 80 con il progetto, Traveling in Wimbledon. Sì, esatto, con Dylan, Chaplin, eccetera. Ebbe una visibilità anche europea più, certo, ampia. Mellencamp effettivamente è solo americano e la tournée che ha fatto l'anno scorso in Italia l'ha dimostrato ampiamente. Però è un musicista che ha avuto il coraggio comunque di abbandonare certi fasti musicali degli anni 80 per affrontare un discorso molto più impegnato, molto più folk, ha rinunciato a tanto a livello di visibilità, di entrate, pur rimanendo sempre una superstar negli Stati Uniti, però per fare un discorso musicale molto interessante. Gli ultimi dischi di Mellencamp, soprattutto quelli prodotti da Timon Barnett, sì, sono dei capolavori, secondo me, inarrivabili. E anche altri nomi universalmente più conosciuti di lui, almeno su quel versante, dovrebbero prendere esempio. Mi piace molto Mellencamp. Anche a noi. Benissimo, ti porto i saluti che arrivano su Facebook di Alfredo, che dice: Alfredo Pugno, ti saluto anch'io tantissimo, ragazzi. Ecco qua, è proprio lui Facebook, quindi mi fa un piacere estremo sentirti da un capo all'altro dell'Italia. Lui è piemontese, qua siamo veneti, quindi ci io sono di Milano, quindi tu le tre regioni le abbiamo abbracciate tutte. Benissimo, allora abbracciamo ancora la chitarra, perché so che questa volta vuoi fare un omaggio. Parlando sempre di radici, c'era appunto l'ala statunitense, c'è anche l'ala inglese. Sì. E questo è un pezzo che facciamo spesso dal vivo, perché ci piace, perché è un pezzo bellissimo, con un testo molto particolare, scritto da un artista molto sottovalutato, che è George Harrison. Anche degli altri tre. Anche degli altri tre. Degli altri due. Perché Ringo era un po' così. Faceva sempre il quarto. Beh, lui stesso diceva che la gente aveva la percezione dei Beatles come di tre musicisti e un gorilla. Questo lo diceva lui stesso. Quindi, vabbè. Questa è una canzone, penso che sia una delle più belle canzoni mai scritte. Noi dal vivo ci teniamo a suonarla quasi sempre. Quindi l'influenza, in tutte le salse. L'influenza inglese in questo senso entra in questo brano che probabilmente conoscerete. I look at you, see the love that is sleeping, while my guitar gently weeps. I look at your heart and I see it weeping. See my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know why someone controlled you, they bought and sold you. I look at the world and I know this is turning, while my guitar gently weeps. Every mistake we must surely be learning, still my guitar gently were invited to move. I don't know how you were invited, no one already to you. I look at your hole, see the love that is sleeping, while my guitar flow, and I see in it sweeping, still my guitar gently weeps. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. My Wild Guitar Gently Weeps, questo è un grande brano, l'abbiamo riconosciuto tutti. Tratto dall'album bianco. Sì. Poi il testo è bellissimo, appunto. Parla di questa chitarra che piange. Sì. Gently è quasi intraducibile in realtà in italiano, perché non rende bene l'idea la traduzione. Della gentilezza. Sì, è più un pianto composto, quasi quasi esente da emozioni, però ci tenevo a farla anche perché volevo dedicarla a un nostro caro amico, un chitarrista tra parentesi, un collega che si chiama Claudio Leo, chitarrista di una band che si chiama Kane, che in questi giorni sta percorrendo una strada molto difficile a livello di salute, e speriamo di vederlo tornare sul palco il prima possibile. Claudio, se ci stai ascoltando, anche Kane e gli altri ragazzi, vi abbraccio tutti. E un bacio, un abbraccio grandissimo. Speriamo di vederlo come nei film western, ritornare come con la sua chitarra, la forma della sua chitarra che ritorna contro sole verso l'orizzonte. E gli vogliamo un gran bene, veramente. Portiamo anche noi un grande abbraccio. Un abbraccio a Claudio Leo. Claudio Leo, sì. Benissimo, allora l'album bianco è uno dei tuoi preferiti, allora, Alex? Sì, notevolmente. È un album che magari lascia da parte qualche sperimentazione in più, come poteva essere Sgt. Pepper o ancora di più altri dischi precedenti come Rubber Soul, eccetera, sì, eccetera. Volta. È un disco dove si sono concentrati molto sulla composizione e sulla varietà. Helter Skelter l'ha scritto John Lennon per l'album bianco. Esatto. Dobbiamo ricordare che Helter Skelter è il pezzo che ha fatto scatenare l'hard rock, qualcuno dice. Certo, gli U2 in primis, si può dire così, sì. E tra altre cose, penso sia l'album dove Ringo Starr ha suonato di meno, no? Nonostante sia un doppio. Perché mi sembra di ricordare che a un certo punto, tipo Obladi Oblada o Back in USSR, siano stati suonati per la batteria di Paul McCartney. Credo che Back in USSR sì, venga suonata da Paul McCartney. Sì, ma doveva essere andato in vacanza lui, mi pare, Ringo. Tanto vedeva che l'utilizzo. Un peccato che Ringo Starr, adesso rischio di dire una bestemmia, ma è un grandissimo batterista. È il figlio più che altro, forse. Il figlio è anche molto bravo, ma lui è un grande stile. Molti non ci facciamo caso perché ormai l'abbiamo interiorizzato, ma molto spesso quando sentiamo in giro altri gruppi o comunque dei suoni, delle sonorità Beatles, andando ad analizzare queste sonorità, vedi che sono costruite su un portamento di batteria che era quello di Ringo. Sì. E quindi adesso vabbè, non vorrei falsamente semplice, si può, esatto, dire così. Esatto, non, no? Vorrei adesso appunto mettermi lì a fare un'analisi tecnica da quattro soldi, però il modo di suonare di Ringo era secondo me terribilmente caratterizzante per quello che era il suono vero dei Beatles, quello che ci ricordiamo tutti. Quindi è bistrattato e non se lo merita. Sì, poi comunque c'aveva, esatto, Maurizio, perdonami, quel movimento leggero di testa per per dare sincronia al ritmo, fantastica. Poi si traduce in una dinamica molto particolare che aveva lui nel portare un semplice quattro quarti, che è appunto quello che mi capita di sentire da altre parti e che in verità ha insegnato a suonare quel semplice beat, l'ha insegnato a suonare a una generazione, più a quasi tutti i batteristi che sono venuti dopo di lui. E sentirlo fatto come lo faceva lui è quello che ti fa capire quanto in realtà è stato importante per i Beatles. Perché qualcuno ha detto Pete Best era troppo bravo per i Beatles, era troppo bravo, lui l'hanno messo da parte, hanno preso Ringo. Qualcuno è stato il produttore a volere Ringo, non Pete, sì, Best. È vero, stato proprio lui. Ma Ringo, prima di entrare nei Beatles, era un batterista molto apprezzato. Esatto, sì. Lui è un bravo batterista. È un bravo batterista, però era molto apprezzato nelle... L'hanno incontrato ad Amburgo, no, quella, sì, volta. Sì, sì. Non lo so, no, credo che fossero già tornati a Londra. Sì, e per le prime incisioni. Sì, perché con Pete Best nelle prime incisioni c'è lui. Esatto. E dopo hanno dopo deciso. hanno visto che non era adatto. Quindi hanno preso al Ringo, che erano tra uno dei batteristi più gettonati in quel periodo. La cosa comica, e chiudiamo l'argomento Ringo, è che chiamato per fare la prima incisione con i Beatles, George Martin, sì, che non sapeva di questa, esatto, sostituzione, chiamò un altro turnista, Ringo arrivò e si trovò un altro turnista è vero. In studio e fu costretto a suonare, credo, le maracas o le, sì, congas, non, sì, mi ricordo, sì, cosa, perché ormai era lì e qualcosa doveva più farlo. Comunque, sin dall'inizio ha capito qual era la sua strada, il suo ruolo. A livello purtroppo mediatico era quello di quello da parte. Benissimo, però... continuiamo a parlare allora di quello che è invece il tuo disco, Alex, ricordando anche i nostri ascoltatori, stiamo parlando dell'Umana Resistenza, questo bel disco, come l'abbiamo definito in principio di trasmissione, un concept album, sono 12 canzoni, anzi per l'esattezza sono 11 canzoni e un brano strumentale intitolato La Nostra Primavera, che è veramente una suite musicale di grande spessore d'ascolto. Dove ti aspetti sempre che Alex inizi a cantare, in realtà continua, va avanti sempre. Essendo questo un disco comunque, può piacere o no ovviamente, però credo che sia comunque molto denso, duro, teso, lascia poco spazio, mi serviva un pezzo finale che costruisse una specie di ponte verso un futuro che si spera possa essere un po' migliore. In questi casi, visto che parliamo solo di pura emozione, perché non c'è un fatto vero purtroppo ancora da raccontare, ci si affida solo alla musica. In questo il mio essere chitarrista ovviamente viene fuori. E mi serve questa melodia abbastanza ariosa, penso che possa rappresentare al meglio, spero, appunto questo ponte che porti verso una primavera, nella speranza che se mai arrivasse una nuova primavera sia veramente nostra, possiamo veramente goderne i frutti. Tu nella tua carriera non sei stato solo chitarrista, hai prodotto un sacco di gente, recentemente un cantautore che hai citato prima. Ormai sono più di 10 anni con la fortuna di lavorare con Massimo Priviero, a livello di rock di qualità penso che sia una delle voci più importanti italiane, quindi Cristiano al 100%, che ha fatto anche quel lavoro delizioso con Michele Gazzi, sì, esatto. Folk rock, bellissimo, bel lavoro, bellissimo. Veramente molto bello. Dove... che è un libro CD, tra le altre cose. Che è un libro CD, esattamente. Sì, noi su quell'album lì abbiamo collaborato, perché era un progetto proprio di Massimo e di Michele, abbiamo collaborato solo facendo cori, mm-hmm. Io e Lisa in alcuni brani. Però è veramente un bel prodotto. Ma no, tu hai prodotto bello. Anche molta gente. Ma fortunatamente ho avuto la fortuna di lavorare in studio con artisti come Massimo Priviera, appunto, Dario Gai, Tullio De Piscopo, Marco Ferradini, Maria Nazionale. Che adesso va a Sanremo. Tra parentesi. Quindi ho avuto la fortuna, Eugenio Ban, che magari non tanti conoscete, sì, ma Eugenio Ban, grande presentatore, esatto, anche televisivo. Ha fatto un disco e sì. Ho avuto la fortuna di produrlo, di suonare assieme a lui. Abbiamo scritto qualcosa anche su quel disco. Che aveva anche qualche. Bene. Sì, bene, bene, così tanto bene che l'ha pubblicato anche nel suo sito. Quindi. Più altre produzioni di vario tipo, gospel, addirittura sì. Un paio sono andate in classifica, quindi ho avuto la fortuna di poter lavorare a tutta una serie di cose che ovviamente sono tutte utili poi al momento in cui si tratta di approntare, certo, il tuo lavoro, e va bene così. Ho partecipato all'ultimo disco dei Lowlands, che era un bellissimo tributo a Woody Guthrie. Certo, sì. Che era Better World Coming. Sì. E quindi, insomma... Sei sempre in attività. Quando si tratta di lavorare con gente a posto, positiva, che funziona, che ha delle belle idee, è sempre un piacere starci assieme. Ascoltiamo un po' ancora le idee di Alex Cambise, ascoltando un altro pezzo dal disco, appunto, L'Umana Resistenza. Questa volta tocca a 7 piccoli indiani. Poveri negretti se ne vanno a lavorare, uno cade da una scala e sei soli ne resta. I 6 poveri negretti sono in coda ad aspettare, uno dorme, non si sveglia e 5 ne resta. Italia, Italia. 5 poveri negretti hanno febbre e stanno male, uno entra in ospedale e 4 ne resta. 4 poveri negretti vogliono il mondo cambiare, uno va dritto in prigione e 3 soli ne resta. Italia, Italia, Italia, Italia. I tre poveri negretti non trovano da mangiare. Uno diventa tronista e due ne resta. Due poveri negretti non rubavano, lo so, ma uno entra in Parlamento e uno solo ne resto. Italia, Italia, Italia, Italia. Cosa aspetti? Vieni qua. Cosa cerchi? Lo trovi qua. E già. Poi pensò, questa è peggio di una guerra, e in fretta se ne andò. Blue Time, Blue Time, Blue Time Live, Blue Time. Live. Sette piccoli indiani. Allora, noi avevamo già qualche dubbio, fortunatamente tu hai messo chiarezza già nella presentazione del testo della canzone, facendo un ampio riferimento a quella che è Agatha Christie. Agatha Christie che qualche tempo prima aveva scritto I dieci piccoli indiani, I dieci piccoli negretti, con il titolo E poi non rimase nessuno, no? E quindi tu hai preso quella storia, però rendendola italià, come dici tu, no? Beh, allora, sicuramente è una cosa particolare. Dieci piccoli indiani è il primo libro che ho letto in quinta elementare. Ah. Scambi di, sai, le maestre che spingono i ragazzini a leggere. Mi è capitato tra le mani sto libro, l'ho preso. Mi è sempre piaciuto, vabbè, a parte la genialata di come si risolve il libro, che non lo dico per chi non avesse mai letto il libro, ma è un giallo comunque. C'è questa filastrocca che praticamente indica il modo e il ritmo degli vari omicidi. Sì. Che ci sono in questo, perché questo libro giallo. Era la storia di una vacanza, Erano che si trasforma. Persone che vengono, che si ritrovano, vengono invitate in questa isola a largo, credo, della Cornovaglia, in un weekend di tempesta, quindi isolati dal resto del mondo praticamente, perché nessuna nave li può raggiungere. E in questo weekend queste 10 persone di volta in volta vengono uccise in vari modi, che sono appunto descritti da questa filastrocca, che nella traduzione italiana, nella versione inglese era Ten Little Niggers. Sì. Nella versione italiana era 10 piccoli negretti. Che poi si intitola invece romanzo. Il titolo invece del romanzo, poi 10 piccoli indiani. Non e mai, poi non rimase nessuno. Sì. E, mi è piaciuta prendere la stessa tecnica narrativa, e quindi fare in modo che a questo punto l'assassino in questione sia in realtà il nostro paese, con bonomia ovviamente lo dico. E ci sono questi piccoli negretti, per l'appunto, che si scontrano con i vari modi che ha il nostro paese di far fuori i suoi abitanti. Quindi, che ne so, la sanità, la ricerca del lavoro, la lotta per i diritti civili. E pian pianino vengono tutti fatti fuori in una maniera o nell'altra, e poi l'ultimo che rimane, purtroppo sconsolato, dice qua è meglio, torno a casa, qua è meglio, esatto, andarsene via, perché la situazione è insostenibile. La canzone è scritta con evidente, spero, sarcasmo, sì, che non è una cifra stilistica no, vera, quindi è stato un tentativo di scrivere in questa maniera, nella speranza che sia venuto fuori. Infatti la canzone è sempre un po' zoppicante, sempre un po' strana, c'è questo italiaco all'accento che dovrebbe rendere tutto più grottesco. Sì. E c'è stato il grandissimo aiuto di Dario Gai, sì, che è un cantautore che ha fatto dei Sanremi negli anni 90, che tu hai prodotto, brava, che ho avuto la fortuna anche di produrre, esatto, scrivere pezzi assieme, che anche lui col suo appunto sarcasmo innato ha dato una credibilità vera, molto più di me in questo senso, al fatto che questo pezzo sia un po' sgarruppato e, sì, e strisciante per certi e versi. Il tuo dire italià dava un che di partenopeo anche al, sì, ma un ma po' di che, colore più che partenopeo era proprio cercare di rendere il tutto più grottesco, quindi questa Italia con l'accento che non è l'Italia vera, ma a questo punto è un'Italia, boh, spero che sia solo dei sogni, anzi degli incubi degli italiani. E quindi ho voluto appunto rendere il tutto più strano con questo accento, non è un riferimento geografico particolare, semplicemente aiutava a rendere tutto fuori dalle righe, quindi un po' come se fosse il Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Certo, sì. Cogliamo l'occasione per salutare anche Alberto Prisco, attraverso il quale tu sei qui con noi questa sera. Alberto Prisco, che è un attimino in ritardo, per cui ci concede ancora 5 minuti del suo programma riversati sul nostro. Benissimo. Quindi grazie, allora abbiamo tempo di ascoltare ancora. Lo ringraziamo tantissimo. Due canzoni. Ci sta ascoltando e sta correndo in macchina e tra poco sarà da noi per condurre Rock Wave nella sua classifica fino alle 24 qui su Blu Radio Veneto. Allora non abbiamo tempo di ascoltare naturalmente tutte le canzoni di disco, invitando ancora gli ascoltatori a scegliere quelli che sono i canali migliori per entrare in possesso, a partire da iTunes, per andare verso iTunes, il tuo per sito, andare sul mio sito alexcambise.com, sulla mia pagina Facebook ovviamente, quindi facebook.com/alexcambise. Potete richiederlo nei negozi specificando la distribuzione che è IRD, oppure semplicemente se non riuscite a trovarlo nei negozi e non riuscite ad ordinarlo, vi riferite semplicemente al sito o della IRD o meglio ancora della Ultrasound Record, che è la casa discografica con la quale appunto potete venire in contatto con i dischi. L'email del nostro sito è info@alexcambise.com, quindi non solo per chi vuole fare i spero sentiti complimenti, ma anche perché semplicemente ha curiosità o magari perché vuole organizzare qualche concerto, quindi Assessorati, che ne so, associazioni culturali, può fare tranquillamente riferimento a questa email, ripeto, info@alexcambise.com, oppure ci contatta tramite Facebook. E niente, questi sono i modi per contattarci, speriamo di avere tanti amici. Qualche data nuova che hai? Abbiamo, guarda, prevalentemente in questo momento stiamo lavorando a delle presentazioni acustiche, per esempio adesso tra qualche giorno saremo in Brianza, a Cassago, per delle cose, stiamo lavorando anche a delle cose qua in zona, perché ci sono un tot di locali che lavorano, ma il vero lavoro lo faremo in estate per i festival del caso, eccetera, eccetera, quindi anche in questo caso, sia tramite il sito, sia tramite la pagina Facebook, ci teniamo in contatto e sicuramente troveremo il modo di incontrarci e stringerci la mano. Benissimo. Alex, visto che Alberto, grazie ancora, ci regala ancora questi 5 minuti, avevamo in scaletta a metà tra dentro la pagina e fuori dalla pagina la ragazza di Longarone. Ma non so quanti pezzi possiamo ancora far sentire. Ancora un paio? Direi un paio di pezzi, sì. Allora ci terrei a far sentire invece una canzone che ha avuto la fortuna di avere come ospite Edward Abbiati dei Lowlands. Ah, benissimo. Che è Nostra Signora dei Sogni Cadenti. La cosa particolare è che Edward è la prima volta che canta, lui è italo-inglese, è la prima volta che canta in italiano, e da quello che mi dice lui forse sarà anche l'ultima, non lo so. Comunque ho avuto la fortuna di catturarlo in questa performance italiana, è un pezzo alla quale tengo molto. Sì, chiedo scusa che comunque prima avevo detto Nostra Signora di Longarone, in realtà la canzone, per dare onore al titolo, è La ragazza di Longarone, ed è tratta del primo album, dal primo album, che era Tre vie per un respiro. Hai unito i due. Ho fatto un medley, cioè, diciamo. Sì. Benissimo, quindi questa che ci ascoltiamo si intitola Nostra Signora dei Sogni Cadenti. Eccola qua. cosa c'è? Che cosa c'è? Che resti vivo qua, lo porterò con me. Oggi vendo la mia età e i suoi vicoli bui, con le sue strade chiuse dai muri che ora sa. Che cosa avrà, che cosa avrà la luna da cantare in questa miseria? Neanche i corvi restano, troppo sangue a terra, fango da chissà che forza non ne ho. Da nord e freddo sarà, cosa vedrò lungo la via che porta all'anima, mai la troverò. Un cammino ripido, sette scale in nero, e il suono che ora sento è un'ombra in bilico. Vento da nord, freddo sarà. Thank you. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Nostra Signora dei Sogni Cadenti, questa era la canzone di Alex Cambise, il suo lavoro si intitola L'Umana Resistenza. Allora, come si diceva prima, una preghiera, quella di Alex Cambise, per questa la Nostra Signora dei Sogni Cadenti, dove lei non viene mai nominata, si può dire così? No, è un qualcosa che, anche perché ognuno di noi la chiama in maniera diversa, quindi era inutile chiamarla in una certa maniera. Qualcuno la chiama speranza, qualcuno la chiama desiderio, anche bisogna vedere. È semplicemente un qualcosa al quale noi ci affidiamo quando ci accorgiamo di non far parte di tutto il rumore, di tutto il correre, le corse, la fretta, la cattiveria, la crudeltà che c'è in giro. Quindi a un certo momento ti fermi a questo crocicchio dove ci sono varie strade che si aprono e non sai quale prendere. L'unica cosa che puoi fare è guardare un attimo il cielo, un po' come fanno i cani quando piove, guardare un attimo il cielo e chiedere conforto, chiedere una strada a qualcuno oltre te, qualcuno che sappia pulire quello che eri e sappia poi indirizzare quello che dovrei diventare. E poi il cantante, ospite straordinario. Beh, Edward Abbiati dei Lowlands, come dicevo prima. Lowlands è un gruppo, come avevamo detto in un intervento, penso andava a microfono spento, è un gruppo indie, nel senso che ha sempre portato avanti una strada molto particolare e assolutamente loro, praticamente. Loro, sì, sono un'originalità, sono loro, quando li senti hanno un suono che difficilmente è associabile ad altri artisti magari più conosciuti. Hanno un'originalità particolare, un approccio molto personale al tipo di disco. L'ultimo disco, Beyond, penso che sia molto bello, sì. Uno dei molto dischi bello. Più belli usciti in Italia nel 2012, è sicuramente tra i primi 5. Non a caso è uno dei pochi dischi italiani che ha una distribuzione in Inghilterra, per esempio, quindi, o fanno tournée regolarmente, sì, in Inghilterra piuttosto che in Scandinavia, certo, o in Olanda. Insomma, è un gruppo molto importante. Edward poi è una persona eccezionale. Ed è raro vedere che una persona brava dal punto di vista artistico sia anche poi una bella persona dal punto è di vista molto umano. Umile anche, e quindi quando di una buona parola per noi, mandacelo. Mandaci lui la sua band. Ma guarda, se ci sta ascoltando, io spero che ci stia ascoltando, e se mi sta ascoltando faremo in modo presto di venire magari assieme io e lui con un progetto nostro. Oh, perfetto. Questa è un'anteprima, ancora prima che lo sappia cercherò di convincere. Ormai cercherò di convincerlo a fare qualcosa del genere. Benissimo, allora L'Umana Resistenza, ricordiamo Alex Cambise, e tra le altre cose, dovevamo dirlo sin dall'inizio, ma lo diciamo adesso, non è mai troppo tardi, dire che il CD è corredato anche con un libricino che porta tutti i testi, veramente per non perdersi niente di quello che dice Alex, perché i testi sono davvero, davvero impegnati, raccontano molte storie, tutte assolutamente vere, tutte assolutamente dove vale la pena scavare, come diceva lui, per capire cosa c'è dietro queste atrocità in certe situazioni. Ti ringrazio molto, insomma, abbiamo cercato di raccontare le cose come stanno, senza né particolari abbellimenti né senza particolari recrudescenze, quindi molto spesso la verità è più spaventevole, come direbbe Pupi Avati, dell'immaginazione. In questo caso è così. Certo, benissimo. Allora, che dire, è stata un'esperienza bellissima quella di stare insieme a te, Alex, sì, insieme a Lisa, Liz Petti, che grazie a voi, che ti ha accompagnato con la voce stupenda, e poi ci ha regalato questa sua chicca di While My Guitar. Sì. Bene, speriamo che i microfoni siano stati all'altezza. No, è sempre un piacere venire qui, poi porta fortuna a venire a Blu Radio Veneto, quindi sì. Bene, perfetto, una bella famiglia. È una bella sensazione, insomma, spero che qualcuno di coloro che hanno ascoltato porti porti a letto con sé qualche piccola storia di quelle che abbiamo raccontato oggi, magari domani o dopodomani gli venga voglia di approfondirlo un po'. Benissimo, ricordiamo che anche questa trasmissione è stata registrata, entrerà a far parte dei nostri archivi sonori, quindi sarà anche possibile riascoltarla, basta averne voglia, cliccando all'interno della, sempre della notizia riservata ad Alex Cambise nel nostro sito bluradioveneto.it, e naturalmente potrà ascoltarsi le versioni acustiche dei pezzi che poi naturalmente andrà a far propri con, tramite l'acquisto del CD, appunto. Ricordiamo ancora una volta il titolo: L'umana resistenza. Allora, Sound Record IRD. Benissimo. Allora ci salutiamo con una canzone, un breve cappello sulla canzone, poi sì. Ma è una canzone che innanzitutto voglio dedicare all'amico Daniele Benvenuti, che è qua di Trieste, quindi magari è in ascolto. È una canzone che per me è sempre stato importante a livello di inno. Le parole sono, il titolo è molto importante, il significato è molto importante. Parla dell'importanza appunto dell'essere uniti, della fratellanza, per non arrendersi. Vabbè, il titolo, la canzone non la dico neanche, perché penso che qualcuno di voi già la conosca, quindi chi non la conosce, il compito per domani è andare in giro a cercare e vedere chi è l'autore. Benissimo. Allora, noi lasciamo i microfoni aperti ad Alex Cambise, a Lisa Lisbeth Petty, che è venuta a trovarci assieme ad Alex. Grazie, un bacio a tutti e un saluto. Un bacione, buonanotte, viva Blu Radio Veneto. Grazie. Grazie. Allora, noi abbiamo detto tutto, lasciamo ancora i microfoni aperti ad Alex e a Lisa. Da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara è davvero tutto, quindi Blue Time Live può finire qua. Grazie Alex. Grazie a voi. We busted out of class, had to get away from those fools. We learned more from a free man ragger than we ever learned in school. Tonight I heard the neighborhood drum sound. Failed to begin to pound. Sit tight, just wanna close your eyes and fall dreamless down. We made a promise, we swore we'll raise my mom. Now we dream by the known surrounder. Like cinders in the wind, as night we the wild to defend. No retrieval, baby, the no surround. Her young face grows sad and old.